quadro, prega per el martul e prega per el ladro. Ave Maria, inciudada lanza el mur, nella ca e del magut, nella ca del dottur. Vada, vada, vada, vada giù, dona del rosari, sentici lampedin, restes lampadari. Vada, vada, vada, vada giù, dona del rosari, sentici padre eterni, sentici ciulandari. Che de meno mi in processión strepa fai peccato con tel cavabuchon. Ave Maria, e forse che impagura che veglia John quai angel con la faccia più se scura. Vada, vada, vada, vada giù, dona del rosari, sentici lampedin, restes lampadari. Guarda, guarda, guarda giù, dona del rosari, sentici padre eterni, sentici giulandari. Vestida de celeste, se recordum de te, duma suta e fest. Ave Maria, curta il cor piede spad, guarda quel che succede, giù in mezza e strada. Guarda, guarda, guarda, guarda giù, dona del rosari, sentici lampedin, restes lampadari. Guarda, guarda, guarda, guarda giù, dona del rosari, sentici padre eterni, sentici